in primo piano. Buongiorno da Elisabetta Fiorito, in studio Alessandro Chiappini, e iniziamo subito questa rassegna stampa segnalando le notizie dai siti, perché è morto questa notte l'attore Robin Williams, quindi i giornali non ce l'hanno ancora. Il sito di Repubblica: morto Robin Williams, si sospetta suicidio, i mille volti dell'attore, e poi c'è la scena cult dell'attimo fuggente. Morto l'attore Robin Williams, il Corriere della Sera: si sospetta un suicidio, soffriva di depressione. Il comico, 63 anni, è stato trovato morto nella sua casa in California. Lo stato del decesso sarebbe stata un'asfissia. Aveva vinto il premio Oscar nel 1997. E Obama dice: talento incommensurabile. Intanto salutiamo il nostro ospite di oggi, l'inviato del TG2 Angelo Figorilli. Buongiorno Angelo. Buona giornata a voi. E è appena tornato da Gaza, ma parleremo con lui anche di economia, perché Angelo è stato nella redazione economica del TG2 per molto tempo prima di diventare inviato, giusto Angelo? Sì, giusto. E quindi quando si dice si fa l'inviato prima, però c'è tutta una procedura. Allora andiamo subito per parlare di economia ai titoli di oggi. Il Sole 24 Ore: allarme di Moody's sull'Italia, ma secondo l'OCSE per l'economia italiana fase positiva in arrivo. E questo è il Sole 24 Ore, il nostro giornale. Moody's: gela l'Italia, niente crescita. L'articolo 18 spacca il governo, il titolo di Repubblica: rischio manovra da 25 miliardi, riforma del lavoro, scontro PD nuovo centrodestra, stanchi dei Vucumpra, bufera su Alfano. Ora Alfano, scrive il giornale, scopre i Vucumpra, bassa immigrati, dopo aver cancellato il reato di clandestinità, siamo proprio al giornale, promosso la folle operazione Mare Nostrum, il ministro non vuole stranieri sulle spiagge italiane, ma sono gli stessi che ha fatto entrare lui. E il Corriere della Sera, ma poi il Corriere della Sera ne parleremo molto per gli esseri: UE e mercati chiedono riforme, Moody's Italia in recessione, ma l'OCSE fase positiva, Bruxelles: cambiamenti necessari per la crescita, però decide Roma, Renzi chiama la Casa Bianca. E poi andando alla stampa, Moody's gela l'Italia sul PIL, per il 2014 previsto un meno 0,1%, Renzi a fine anno tornerà la crescita. Condono fiscale da 500 miliardi è il titolo di Libero, hanno scherzato, la nuova direttrice dell'Agenzia delle Entrate annuncia che il fisco non cercherà più di incassare le somme evase nel passato per concentrarsi sul presente. Una resa dello Stato, oppure quella cifra era inventata per giustificare blitz? Ovviamente questa è la tesi di Libero. Italia Oggi: la fuga dei capitali non si ferma, nei primi 7 mesi del 2014 la Guardia di Finanza ha già intercettato 124 milioni in uscita e 54 milioni in entrata. Quindi insomma vediamo un attimo, queste sono le cifre di quello che è la fuga dei capitali secondo Italia Oggi. Moody's gela i conti dell'Italia, il Messaggero: l'agenzia di rating taglia le previsioni a fine anno, PIL a meno 0,1%, troppa lentezza nei cambiamenti. Ultima spiaggia, titola la Padania, con un Alfano vestito da Vucumpra. Il Foglio: l'euro senza febbre, Renzi senza scuse, sottovalutiamo il fatto che la cura Merkel Draghi per l'euro ha funzionato. Moody's: il debito italiano è sostenibile, no a ristrutturazione patrimoniale, dicono i calcoli del Peterson Institute. Poi Banana Republic è il titolo del Fatto Quotidiano, con Tavecchio in primo piano che mangia una banana. Stravecchio è il titolo della Gazzetta dello Sport. E poi l'ultimo titolo è invece quello, non il penultimo, scusate, Obama Accord, il titolo del Manifesto. Iraq cambia il vertice, controffensiva dei curdi, il titolo dell'Avvenire. E leggiamo subito, andiamo subito a leggere il Il pezzettino che ci fa capire sul Sole 24 Ore: Moody's rivede la stima del PIL nel 2014 italiano da più 0,5% a meno 0,1, un quadro che, oltre a mettere a rischio il 3% sul deficit PIL, renderà più difficile le riforme. Più ottimista l'OCSE: l'Italia ha di fronte una fase positiva, la UE riforme strutturali, ma l'attuazione riguarda l'Italia. Borse recupero: Milano a più 0,39%, spread a 173 punti. E qui, se noi sfogliamo appunto il Sole 24 Ore, Moria Longo ci scrive: proprio alla luce dei recenti dati sul PIL, abbiamo deciso di rivedere le nostre stime sull'Italia rispetto alle precedenti previsioni di una crescita dello 0,5%. Ora riteniamo che l'economia del paese si contrarrà dello 0,1% nel 2014. Questo, secondo Moody's, renderà più difficile ridurre il deficit e debito pubblico, ma soprattutto renderà politicamente più complesso implementare le riforme strutturali. Bastano poche parole all'agenzia di rating Moody's per prevedere quelli che tanto temono: anche nel 2014 l'Italia potrebbe non crescere. Dopo due anni di recessione, insomma, potrebbe esserci il terzo. Moody's riconosce che la misura degli 80 euro è entrata in vigore a giugno, per cui si è riflessa solo in uno dei tre mesi del secondo trimestre, quindi i suoi benefici non si sono ancora visti, ma ugualmente non prevede che l'Italia possa riprendersi quest'anno. Angelo, chiedo subito a te, insomma, è un quadro molto cupo quello che ci fa Moody's e che viene poi da Oltre Alpe. Direi proprio di sì. Diciamo che può sintetizzare dicendo che siamo ancora, diciamo, anche il 2014 secondo Moody's sarà un anno di recessione, tecnicamente di recessione, lo leggevi tu un attimo fa, quindi sarebbe il terzo anno di seguito per l'economia italiana di recessione tecnica. E qui si tratta di capire, insomma, su questi dati naturalmente ci sono diverse scuole di pensiero, ci sono gli ottimisti e i pessimisti, come vedi c'è anche l'OCSE che intravede spirali di ripresa. Di fatto sono mesi che noi discutiamo, diciamo, delle possibilità di uscita dalla crisi, della luce che si intravede in fondo al tunnel, ma facciamo pochi conti col fatto che questa è una crisi pesantissima e che un paese come l'Italia, che è gravato dai fardelli storici del debito pubblico e del deficit, in realtà fa fatica ad affrontare molto più di altri paesi che pure erano in crisi. Pensiamo alla Spagna, che invece ha cominciato a invertire la tendenza. E naturalmente qui il tema si sposta su che cosa fare, l'urgenza delle riforme, le riforme strutturali, eccetera, per liberare, diciamo, l'economia italiana e farla ripartire. Ora, anche su questo le grandi discussioni vanno avanti, diciamo, da mesi, anche quelle di tipicamente estive. Penso per esempio all'uscita di Alfano, del ministro Alfano, sull'articolo 18, cioè riprendere vecchi capitoli che secondo loro sarebbero, diciamo, la chiave di volta per rilanciare l'economia. Anche su questo ci sono gli ottimisti e pessimisti. Io per esempio sono del parere che il tema più gigantesco che l'economia italiana debba affrontare per liberarsi è invece quello della burocrazia, cioè della possibilità in qualche modo di semplificare i rapporti tra il cittadino e lo Stato, sia per quanto riguarda le imprese, sia per quanto riguarda proprio i cittadini. Però, come vedi, qui siamo in tema di opinioni e anche di opinioni estive, quindi insomma le terrei un po', diciamo, in conto, ma relativamente. Eh sì, è proprio così, perché dopo l'Istat c'è Moody's a rovinare l'agosto di Renzi, si scrive su Repubblica, un articolo di Francesco Bei e Valentina Conte, ma il Premier non se ne cura, i soliti pessimisti li bolla facendo il punto con i suoi, che raccontano la telefonata del pomeriggio con Obama, nella quale i due leader si sono confrontati anche sul tema della crescita in Europa. Ce la faremo nonostante i profeti di sventura, insiste Renzi, e la strategia non cambia, anzi si rafforza. E poi dice appunto: bocche cucite a Palazzo Chigi sull'ennesimo dato negativo inanellato ieri dall'Italia, la recessione estesa da Moody's all'intero anno, il governo ufficialmente non commenta, ma l'irritazione è percepibile. La parola d'ordine passa di bocca in bocca tra renziani del cerchio ristretto, l'esecutivo procede spedito anche con un PIL dal segno meno e i gufi di Moody's. spalle del tartufo, sopra un tufo tutto bianco, ci sta un gufo molto stanco, ad essere franca anche un po' stufo. La canzone dei gufi, dei perturbazioni, no scusate, noi la dedichiamo al nostro premier Matteo Renzi. Segnalo anche però un articolo di Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, il sostegno del Colle all'agenda delle riforme. C'è chi accredita l'incontro per domani, chi nei prossimi giorni, ma sulla data c'è ancora un margine di incertezza. Non c'è invece sul tipo di riflessioni che si scambieranno Matteo Renzi e Giorgio Napolitano. Tra l'altro vedersi già ieri magari avrebbero dato l'idea di un clima di emergenza dopo il nuovo rapporto di Moody's che né il premier e tantomeno il capo dello Stato vogliono dare. Insomma, quindi si parla molto di questo incontro che ci sarà praticamente proprio per decidere il nuovo passo. Segnalo anche invece sul Repubblica, Bruxelles si prepara allo scontro con Roma, procedura per deficit, ipotesi già al lavoro e quindi si prepara a Bruxelles prendono nota con grande attenzione dei movimenti del governo italiano sul fronte economico e non è sfuggita la frase di Renzi che ha consegnato al Financial Times: speriamo di chiudere l'anno con un deficit al 2,9%, scrive Alberto D'Argenio. Lo spettro di Bruxelles quindi è già pronto, parole che viste dalle istituzioni europee suonano quasi come una dichiarazione di guerra, si profila uno scontro tra Roma e Bruxelles, già perché pur restando sotto la soglia del 3% senza sforzi aggiuntivi l'Italia comunque non manterrebbe gli impegni presi con l'Europa rischiando una procedura per deficit che manderebbe in tilt i rapporti con i vertici dell'Unione. Ecco Angelo Figorilli del TG2, ti chiedo, tu che appunto ti occupi di esteri, prima c'è stato il monito di Draghi la scorsa settimana, adesso c'è questo rapporto deficit PIL che rischia lo sforamento, insomma siamo sempre tenuti a bada, i nostri conti sono sempre passati proprio al setaccio per vedere se l'Italia poi non fa la cattiva come poi o fa problemi con i conti pubblici. Anche questa è una lunga discussione, cioè se noi i compiti a casa li facciamo perché ce lo chiede l'Europa o perché invece li facciamo per i nostri figli, insomma anche su questo la discussione è stata fatta molto spesso, diciamo calibrata sulle parole piuttosto che sui fatti. Il problema vero è che noi abbiamo questo fardello del debito pubblico, questo rapporto tra PIL e deficit che dobbiamo diciamo tenere sotto controllo. Ora naturalmente si può discutere, contrattare con l'Europa sulle modalità, sul fatto se escludere o meno dal patto di stabilità una serie di investimenti per rilanciare l'economia, ma di fatto oggettivamente il problema di tenere diciamo in ordine i conti è prioritario per qualunque governo. Lo abbiamo sempre saputo, l'abbiamo saputo da quando diciamo è andato via Berlusconi, poi è arrivato Monti e infine adesso diciamo Renzi dopo la parentesi di Letta. Quindi questo è un tema che noi dobbiamo tenere da conto, cioè bisogna lavorare a rilanciare l'economia sapendo che bisogna fare delle cose diciamo prioritarie. Ora la discussione è naturalmente sui tempi, sulle modalità, ma insomma ogni volta troviamo, questa volta c'è anche Draghi insomma, che ci va a raccontare, in genere pensavamo che Draghi fosse più diciamo dalla nostra parte, anche Draghi che in qualche modo ricorda che i temi e le priorità sono quelle. Ora è inutile girarci intorno, il tema del rilanciare l'economia deve fare conti con questo tipo di sobrietà diciamo di rigore, è sempre difficile proporlo all'opinione pubblica, proporlo ai cittadini l'idea che bisogna tirare la cinghia, però anche questo è, e secondo me anche il governo Renzi deve farsi carico anche di questo tipo di diciamo di logica, anche di comunicazione, di narrativa come si dice, cioè non siamo nella fase in cui possiamo diciamo pretendere la crescita senza diciamo dire anche agli italiani che la crescita si basa anche su tirare la cinghia, fare sacrifici e rimettere in ordine i nostri conti. Allora, i vostri sms al 349-238-6666, Matteuccio li sogna anche la notte, i gufi ora li vede anche nelle agenzie di rating. La strategia non cambia, ma anzi si rafforza. Che strategia? Quella di ripetere i gufi, dice un altro nostro radioascoltatore. Per chiudere la pagina economica segnalo la guida pratica per la famiglia, le regole per le opportunità sul Sole 24 Ore, i limiti all'uso del contante. Poi segnalo anche un editoriale del nostro Oscar Giannino sull'articolo 18 sul Messaggero. Si torna allo scontro sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, quello che disciplina le norme per i licenziamenti e i reintegri nelle aziende sopra i 15 dipendenti. Nei decenni la norma è diventata una lizza obbligata per tornei di partiti contrapposti e cerca di capire che cosa veramente c'è in gioco. Poi condono fiscale, appunto, segnalo di Maurizio Belpietro. La signora delle tasse annuncia che d'ora in poi il fisco non inseguirà più evasori ma si limiterà a fermarli sul Libero, e praticamente la tesi è Rossella Orlandi che fa, dice tranquillamente: scusate, questi quattrini non riusciamo a recuperarli perché in qualche caso è fallita l'azienda oppure il contribuente, e secondo Libero si prepara un condono fiscale da 500 miliardi. Moody's gela l'Italia, segnalo Luca Ricolfi sulla Stampa, ma praticamente anche su il giornale Moody's, i gufi del rating ci riprovano. Alessandro Sallusti praticamente critica sempre, è come riavvolgere il film e tornare a quell'estate del 2011, l'ultima edizione del governo Berlusconi, le tensioni con la Germania della Merkel, quelle con la Banca Centrale Europea che minaccia di commissariare l'agenzia internazionale, Moody's in testa, insomma dice: ci ritroviamo sempre al giorno in cui Silvio Berlusconi lasciò praticamente il governo. Cominciamo a parlare di quello che succede praticamente in Iraq, segnaliamo Alberto Negri sul Sole 24 Ore, ma vogliamo iniziare a leggere il Corriere della Sera. I blindati a Baghdad, ora si teme un golpe nell'Iraq lacerato dalla guerra contro le milizie jihadiste. Si apre anche una grave crisi politica, il premier al-Maliki ha schierato a Baghdad i battaglioni a lui fedeli, in aperta sfida alla scelta del presidente Masum di sostituirlo con un altro sciita al-Abadi. Una decisione sostenuta dagli Stati Uniti. Intanto continua l'odissea degli yazidi in fuga per evitare il massacro, e c'è proprio un articolo di Lorenzo Cremonesi che è andato a seguire questa minoranza e che dice appunto i cristiani iracheni almeno hanno la solidarietà delle chiese, la comunità internazionale che li aiuta, noi siamo soli, non abbiamo nessuno, dicono stremati, scrive Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, un fiume di naufraghi perseguitati dalle brigate del cosiddetto califfato con tante storie individuali di orrore e paura. Poi anche sul Corriere della Sera segnala anche la CIA, i mercanti, le rotte dell'Est, corsa a vendere armi, grandi carichi per i peshmerga curdi, e gli USA forniscono materiale sovietico. Ecco Angelo, che impressione ti sei fatto? Perché a un certo punto il mondo si è risvegliato con un genocidio in corso di cui non si era accorto, sia quello dei cristiani sia quello degli yazidi. Sì, infatti intanto io vorrei fare un plauso, insomma un ringraziamento a tutti i colleghi giornalisti che hanno intuito, e purtroppo non sono tantissimi, hanno deciso di andare, di avvicinarsi a quell'area che da tempo noi in qualche modo avevamo dimenticato, entrando dal Kurdistan e fronteggiando quella che è una vera novità tragica di questo periodo, in quello scacchiere così tormentato. Noi eravamo appena usciti, non siamo ancora usciti, diciamo, dalla tragedia di Gaza, dall'intervento israeliano, dalla ferita perenne che non si riesce a rimarginare, diciamo, dello scontro tra palestinesi, tra Hamas soprattutto e gli israeliani, quando invece scopriamo che da pochi centinaia di chilometri di distanza era in corso una tragedia da caratteristiche veramente devastanti, che avevamo in qualche modo un po' tutti sottovalutato. Si parlava da sempre, insomma, questa idea del califfato era un'idea, diciamo, che gli estremismi, i fondamentalismi islamici propagandavano. In realtà da qualche mese a questa parte questo califfato ha avuto la possibilità di mettere le radici su una parte cospicua di territorio a cavallo tra Siria e Iraq, e da questo momento ha assunto le dimensioni di concretezza inaudita, e ci troviamo tutti a fare i conti con questa, diciamo, nuova fronte della battaglia. Tra l'altro tu dicevi la novità di oggi non è tanto e non è soltanto il continuare dell'avanzata dell'ISIS e la persecuzione di tutte le minoranze religiose, prima i cristiani, adesso gli azidi eccetera, quanto piuttosto del caos che c'è a Baghdad all'interno degli stessi sciiti. Gli sciiti, che ricordiamo, sono il gruppo maggioritario in Iraq, quello che dunque avrebbe la legittimità a governare, solo che ha governato in una maniera talmente devastante, settaria, da estromettere tutte le minoranze, in primo luogo la minoranza sunnita, e da provocare quel vuoto di potere dentro il quale poi, diciamo, questo estremismo, questo fondamentalismo islamico è rinato. Quindi benvengano intanto i giornalisti che ci raccontano sul campo, se possono, fino a dove possono, quello che sta succedendo, e anche gli analisti che si facciano un mea colpa per la sottovalutazione di questo tema, di questa, diciamo, situazione in Iraq, che invece torna ad essere non solo esplosiva ma difficilmente governabile. Tra l'altro ripropone dei déjà vu come quelli dei bombardamenti americani, che in qualche modo, certo, adesso servono per, diciamo, proteggere la minoranza, le minoranze perseguitate, anche per dare modo di lanciare aiuti a queste popolazioni che sono, diciamo, ormai strette in assedio, però ci ricordano anche degli errori diciamo della campagna americana in Iraq. Cito soltanto, se posso, quello fondamentale, che quando conquistarono Baghdad decisero di distruggere alla base la struttura amministrativa e politica del regime di Saddam, non solo decapitando, che era legittimo, i capi di quel regime, ma anche mettendo sulla strada centinaia di migliaia di soldati, medici, docenti universitari, che erano poi la base del potere, diciamo, ma anche della struttura dello Stato iracheno. Questi erano i sunniti che poi, estromessi definitivamente dal potere, si sono ritrovati anche a fare da supporto a questo fondamentalismo islamico, che adesso è il pericolo che tutti vogliamo combattere. Allora, a questo proposito segnalo, molto interessante, un articolo del Messaggero: petroli e aiuti dagli sceicchi, il tesoro da 2 miliardi dell'ISIS, un tesoretto di 2 miliardi di dollari, entrate che crescono a mano che 10.000 e più miliziani dello Stato Islamico della Siria e del Levante, ISIS, guadagnano terreno a colpi di mitra e massacri, allargando i confini del neonato califfato sunnita tra Siria orientale e Iraq settentrionale. Un fiume di dollari entra nelle casse dell'autonominato califfo al-Baghdadi grazie al petrolio estratto in Siria e rivenduto sotto banca al regime del nemico Bashar al-Assad, e quello della raffineria di Baji vicino Mosul in Iraq, smerciato per $1 milione al giorno. Nella seconda città irachena conquistata in luglio, le bande nere avrebbero fatto la rapina del secolo. Ecco, insomma, quindi c'è tutta una storia poi, no? Perché poi per fare la guerra bisogna avere i soldi. Allora, apriamo con una polemica di un nostro radioascoltatore che dice: cari giornalisti, vi ha fatto più la notizia la farsa palestinese? Voi avevate gli occhi chiusi per la Siria quando? Ecco, quello che un po' dicevamo, anche che dicevi tu, Angelo, no? Che magari ci siamo concentrati più su Gaza, sull'eterno conflitto israelo-palestinese. Allora, tu sei appena ritornato sia da Israele che da Gaza, sei stato in tutte e due. Ora c'è una tregua di 72 ore, c'è la possibilità, attraverso l'intermediazione in Egitto, di far sì che questi razzi da Gaza cessino da Israele e i bombardamenti israeliani cessino su Gaza? C'è più che la possibilità, c'è davvero la speranza più che la possibilità, nel senso che tutti si rendono conto in questo momento che bisogna che nella mediazione tutte e due i contendenti escano in qualche modo salvando la faccia, cioè dicendo di aver conquistato qualcosa. Ed è probabile che questo tiro e molla sulle tregue, per chi ha seguito, diciamo, anche la storia di questi giorni a Gaza, ci sono state tregue unilaterali, un paio di tregue importanti come quella che stiamo vivendo, cioè sottoscritte da tutte e due le parti. In realtà questo è il momento giusto per probabilmente trovare la maniera di cedere ognuno qualcosa e di rivendicare ognuno qualcosa. E quindi da una parte sostanzialmente Israele ha praticamente ottenuto la possibilità di restare a completare il lavoro, diciamo, del smantellamento dei tunnel. Quello che vuole è la smilitarizzazione completa di Hamas. Hamas vuole l'apertura in qualche modo della striscia di Gaza, almeno in uno dei tre valichi importanti, quello egiziano, e la riapertura del porto. Ora, quello che non coincide è la tempistica, cioè in realtà sono temi molto complessi che andrebbero affrontati con trattative di qualche settimana e qualche mese. Quello che invece in questa tempistica è quella che Hamas non sopporta, cioè che ha bisogno di tenere alta la tensione per ottenere subito le cose. Quindi è più una speranza, sperare che in Egitto si riesca a conciliare questi tempi e che soprattutto si riesca ad affrontare, prolungando ancora le tregue, la situazione umanitaria, che è veramente disastrosa, perché l'operazione egiziana, i raid egiziani hanno provocato... Gli israeliani hanno provocato una situazione umanitaria disastrosa, sono più di 500.000 sfollati in una zona con una densità di popolazione altissima, in una zona, in un territorio piccolissimo. Pensate che se Israele è grande tanto quanto l'Emilia Romagna, la striscia di Gaza è come l'entroterra di Rimini, solo che in questa entroterra di Rimini ci abitano 2.000 persone che hanno i confini sigillati, non possono andare da nessuna parte e quindi si muovono da un posto all'altro all'interno della striscia cercando il posto più sicuro dove stare, e spesso i posti che hanno trovato, che pensavano sicuri, come le scuole dell'ONU per esempio, invece non lo erano così tanto. Quindi lì il primo passo è fare entrare, diciamo, convogli umanitari, aprire la striscia alla possibilità di venire e di far fronte a questa situazione così disastrosa. Poi verranno i negoziati più complessi, e la difficoltà sta proprio in questo, cioè nella possibilità di aprire adesso la porta all'aiuto umanitario, mantenendo aperti i negoziati. Quello che fino ad ora non è riuscito, speriamo che riesca nelle prossime ore. E qui segnalo il reportage di Repubblica di Bernardo Valli che cerca di capire che cosa sta succedendo a Gaza, con un'intervista a Mustafa Savaf, e dice praticamente, in sostanza, quello che dici tu è molto difficile. Dice: mi fa subito notare con calma che la densità della popolazione sulla striscia di Gaza, una lingua di terra abitata da 1.800.000 persone tenute in gabbia, ovviamente secondo Mustafa Savaf, da Israele, che chiude tutti gli sbocchi da cielo, mare e terra, e dove mettere le installazioni militari se non tra la gente, e come non tentare la via sotterranea dei tunnel. Angelo, questa qui è una polemica che Israele fa, dicendo che praticamente Hamas usa le persone come scudi umani, e Hamas dice: no, se è troppa densità. Ti finisco di leggere, poi mi dai il tuo parere. E dice prima di luglio, però, stando ad alcuni sondaggi che Hamas nega che siano stati mai fatti, soltanto il 10% della popolazione approvava il governo. Adesso, con la guerra, quindi fa crescere la guerra la popolarità, sarebbero almeno il 40%, nonostante il sacrificio dei civili prevale appunto l'orgoglio nazionale. E quello che paventa un pochino Bernardo Valli in questo articolo su Repubblica è: non è che Hamas poi alla fine ha guadagnato consenso facendo la guerra, purtroppo anche con i morti causati da questa guerra? Guarda, questo è il vero enigma della situazione, ed è probabilmente, diciamo, potrebbe essere l'errore, diciamo, politico di Netanyahu, quando ha deciso che dopo la vicenda del rapimento dei tre giovani ebrei bisognava in qualche modo scatenare una reazione. Il problema è vero, questi sondaggi che Hamas nega c'erano, insomma, invece altre fonti li testimoniavano, cioè di un'opinione pubblica che era stufa del governo di Hamas, stufa della gestione, diciamo, faticosa dell'economia, anche, insomma, corrotta dell'economia, che è della gestione dello Stato. Questo basso consenso invece è probabile, e qui è veramente un grande punto interrogativo, invece sia ricresciuto dopo le sofferenze, diciamo, inflitte alla popolazione di Gaza, sofferenze che, insomma, che certo loro vedono partire i razzi, ma poi vedono anche i bombardamenti, vedono le case distrutte. Su questo questo, diciamo, posso darti la mia testimonianza diretta, l'intervento israeliano ha avuto, diciamo, due piani sostanzialmente. Uno, quello riconoscibile, che noi tutti, diciamo, che aveva una logica, uno la può condividere o meno, che era la logica, diciamo, un po' chirurgica del colpire le case dei dirigenti, le basi dei razzi, le basi, diciamo, di tunnel, naturalmente, soprattutto quelli. Poi però c'è stata una reazione in alcune situazioni, penso al villaggio di Kuta, penso a quartieri come Shejai, eccetera, reazioni, diciamo, sulle quali bisogna aprire il tema della proporzione o della sproporzione della forza utilizzata, cioè interi quartieri rasi al suolo, diciamo, con bombardamenti a tappeto. Ora, questo fa bene o fa male alla strategia di Israele? Questo fa bene o fa male alla causa di Israele? Questo fa bene o fa male al consenso di Hamas? E su questo c'è un grande punto interrogativo. Potremmo, come si dice nell'articolo di Bernardo Valli, ritrovarci adesso con il problema più grave, cioè con il problema come facciamo a tirar via Hamas dalla striscia di Gaza, che è ingigantito, perché Hamas potrebbe aver aumentato i suoi consensi dopo le enormi sofferenze del popolo di Gaza. Ecco, questo è veramente il punto interrogativo che è difficile, diciamo, da sciogliere adesso. E segnaliamo anche un articolo su Hillary Clinton. L'ex segretario di Stato critica la strategia di Obama: doveva armare i ribelli siriani per impedire l'espansione di chi vuole solo scontrarsi con l'Occidente. Ecco gli errori dell'America, ora la Jihad è come l'URSS. Il presidente Obama respinge l'idea che gli USA avrebbero potuto influire sui ribelli in Siria, impedendo che i gruppi ispirati ad Al-Qaeda, che oggi imperversano in Siria e in Iraq, assumessero il controllo della rivoluzione in Siria. Ma Hillary Clinton, ex segretario di Stato e probabile candidata alla presidenza degli Stati Uniti, non è d'accordo. Non aver sostenuto una forza combattente credibile formata dalla popolazione che diede avvio alla protesta contro Assad, ossia islamisti, laici e posizioni intermedie, ha lasciato un grande vuoto in cui ora si sono inseriti gli jihadisti. Ecco, molto critica ci è sembrata Hillary, no? Abbiamo visto anche il titolo del manifesto Obama Accord, no? Che però è chiaramente di parere opposto, però molto critica è Hillary in questo momento sulla politica estera del presidente Barack Obama, considerato un po' troppo timida, no? Cioè, poi alla fine sembra quasi che gli avvenimenti non siano più nemmeno monitorati, ma Obama arriva sempre troppo tardi, è così, Angelo? Beh, insomma, diciamo che è facile, diciamo, il col senno di poi è tutto molto facile, diciamo, tutti possiamo dire adesso bisogna fare così, bisogna fare in quell'altro modo. Non ci dimentichiamo che Obama era stato nell'estate scorsa sul punto di cominciare un intervento aereo sulla Siria, ve lo ricordate, era pronto a schierare i suoi bombardieri quando l'intera opinione pubblica mondiale, ricordiamoci l'intervento accorato di Papa Francesco, che poi il summit del G8 con Putin, eccetera, insomma, alla fine Obama si fermò e tutta la comunità internazionale disse: bene, hai fatto bene, perché si puntava in qualche modo a non destabilizzare quello che veniva considerato un punto fermo dello scacchiere medio orientale, cioè, diciamo, il quadrante della Siria, dove naturalmente tutti criticavano e critichiamo il regime, diciamo, autoritario, violento di Assad, ma lo si considerava un punto di riferimento, diciamo, per governare, per provare a capire come governare l'intero scacchiere. Quindi a quell'epoca, diciamo, l'intervento, diciamo, militare americano fu criticato, ma da moltissime parti e dalle più diverse. Quindi adesso arrivare oggi a riaprire la questione, peraltro molto legittima, perché l'idea di finanziare o comunque di armare i ribelli, la prima fase dei ribelli, quelli che lottavano solo esclusivamente contro il regime di Assad, poteva essere una soluzione. Però ricordiamoci che quella soluzione fu esclusa quasi in toto dalla comunità internazionale un anno fa. Quindi oggi va bene, si può dire, si poteva fare così, però mi sembra, insomma, una strategia piuttosto facile, insomma agire con il senno del poi, peraltro nemmeno tanto sicuri dell'eventuale risultato. Proviamo a immaginare lo scenario inverso, proviamo a immaginare l'intervento americano, i bombardamenti, il finanziamento dei ribelli, anche le armi ai ribelli, non sappiamo come sarebbe andata, ecco, insomma. voglio dire solo questo. E vabbè, senti, però si sta insomma assistendo anche in Libia a una guerra tra bande, quindi è vero che Obama dice io ho sconfitto Gheddafi, però poi forse era meglio lasciare Gheddafi, visto quello che sta succedendo, perché anche a Bengasi si sta instaurando la Sharia, per esempio. Guarda che questo è un discorso che si può fare a ritroso anche per l'Iraq, era meglio lasciare Saddam piuttosto che quello anche che stiamo vivendo adesso. Quindi è evidente che insomma su questo l'Occidente ha agito un po' a tentoni, senza, valutando di volta in volta e facendo errori come quello che dicevo prima sull'Iraq, cioè aver essere intervenuti smontando tutto l'intero apparato dello Stato. Probabilmente se non avessero fatto le cose sarebbero andate diversamente. La stessa cosa in Libia, noi pensa alla posizione dell'Italia che ha trattato fino all'ultimo con Gheddafi, ci ha fatto accordi, gli abbiamo costruito le autostrade fino a quasi 2 o 3 settimane prima che cominciasse la cosiddetta rivoluzione. Poi ci siamo schierati dall'altra parte, cade Gheddafi. Il problema vero è che stiamo assistendo alla alla tragedia completa di quelle speranze che le primavere arabe ci avevano suscitato. Se andiamo a tirare la somma di tutte quella speranza di rivoluzione, di democrazia che la rivolta scoccata in Tunisia ci aveva evocato, la somma è particolarmente disastrosa. E ancora adesso, per esempio, noi parliamo dell'Egitto, noi adesso tifiamo perché l'ex generale al-Sisi riesca a risolvere il problema medio orientale tra il conflitto tra israeliani e palestinesi, ma non meno di qualche tempo fa lo consideravamo quasi tra virgolette un usurpatore della democrazia. C'era il generale che aveva schiacciato la primavera araba e la sua degenerazione con i fratelli musulmani che erano andati al potere legittimamente con le elezioni, ma avevano fatto un disastro. Quindi insomma che su questo fronte si è scoperchiata una pentola che noi veramente non abbiamo, come Occidente, non abbiamo saputo né prevedere né tantomeno gestire. Allora ringraziamo Angelo Figorilli, inviato del TG2, che abbiamo rubato dalla vacanza, infatti abbiamo sentito un po' la linea disturbata, appena tornato però da Gaza. Grazie infinite Angelo di essere stato con noi. E noi continuiamo invece con Stravecchio, il titolo della Gazzetta dello Sport. Il calcio italiano ha finalmente, questo è un altro tormentone dell'estate, il suo nuovo numero uno, come si temeva niente strappi con il passato. Nell'editoriale di Andrea Monti lo giudicheremo sui fatti e sui nomi. Dove eravamo rimasti? 100 giorni sono passati dall'assassinio di Ciro Esposito, in mezzo il disastro del mondiale. 2400 ore che dovevano sconvolgere il calcio italiano e che invece lo hanno rispedito alla casella di partenza, il punto zero. Da ieri Carlo Tavecchio è il nuovo, si fa per dire, presidente della Federcalcio, eletto con oltre il 60% dei voti, più o meno la percentuale che gli veniva attribuito al momento della discesa in campo. Non ci facevamo illusione quando giudicammo la sua candidatura inadeguata di fronte all'urgenza del rinnovamento, non le coltivavamo neppure dopo la clamorosa scivolata sulla buccia di banana. La sua vittoria largamente prevedibile è il trionfo della continuità. E su questo apre anche il Fatto Quotidiano, Banana Republic, appunto il titolo con Tavecchio che mangia una banana. Questa è la foto, il fotomontaggio. Dopo aver riabilitato Berlusconi padre della patria, l'Italia da avant spettacolo, non si fa mancare Tavecchio, nuovo capo del calcio. L'uomo che mangiava banane e ora gioca in Serie A, di questa gaffe, scelto dalla vecchia guardia dei Lotito, Galliani, Preziosi, Carraro e Company, un'elezione a misura del nostro pallone sempre più bucato in un paese alla frutta. Ecco, questo insomma è quello che scrive il Fatto Quotidiano. Ma c'è un'altra notizia, è un'altra notizia che stavolta ci fa andare dentro, no, fuori il teatro più antico di Roma. Subito, io non so come farmi perdonare, maestro, permettere di stringerle la mano. Io Io sono desolato per il modo indegno con cui l'abbiamo accolta. E questa è la voce imperdibile di Glauco Mauri, che recita una pura formalità, un dramma tratto dal film di Tornatore. Per descrivere la situazione del Teatro Valle, se ne vanno gli ultimi irriducibili, liberato anche il foyer, restano le scritte sui muri e sulle scale, ma sono opere d'arte. Ora al 349-238-6666 mi aspetto qualche sms, perché mi dicono che non devo fare commenti, però insomma che posso dire che non sono opere d'arte le scritte sui muri, e che noi non ringraziamo su questo chi ha occupato il Teatro Valle, se ha fatto questo scempio. Allora, al termine dell'ultima giornata del Teatro Valle, occupato dagli attivisti, consegnano le chiavi del foyer alla guardiana del Teatro di Roma, mettendo fine a un'occupazione durata 3 anni. È un gesto sofferto, e in serata quasi si rischia la rottura delle trattative con il comune. A bassa voce gli occupanti confermano: stasera andremo via, ma nell'aria si respira voglia di resistere e malumore all'arrivo dei rappresentanti del comune. Perché vi ho fatto sentire Glauco Mauri? Perché Glauco Mauri è molto critico su chi ha occupato il Valle. Ecco, da loro soltanto arroganza, il progetto culturale, fantasia, all'inizio mi erano simpatici. Hanno tolto le tende? Io credo che fosse ormai tutto risolto, trasecola Glauco Mauri nell'apprendere che gli occupanti sono tuttora in agitazione. Stupito o sconcertato? Direi proprio stizzito, replica l'attore e regista, una vicenda questa che ha dimostrato tutta la debolezza dell'autorità costituita. Uno scaricabarile persino ridicolo in certi paesaggi. Poi finalmente il neoassessore alla cultura Giovanna Marinelli del Comune di Roma si è assunta la responsabilità di una posizione chiara e definita, e devo dire che l'ha fatto con fermezza, ma anche con grande disponibilità, forse troppo disponibile, arriva a dire. Sì, perché questa storia che gli occupanti adesso pretendono garanzie sulla futura gestione del Teatro Valle, che vogliono impegni precisi nei loro confronti da parte dello stabile di Roma, che vorrebbero presenziare addirittura la ristrutturazione, mi pare tutto di una tale arroganza, un comportamento assurdo, una protervia insostenibile, dice praticamente Glauco Mauri, che ricordiamo è uno dei registi e attori teatrali più famosi in Italia. Ed è vergognoso che le autorità non reagiscano nei modi e nei tempi giusti. Insomma, una critica molto molto dura. Vedo un sacco, molti di sms dei nostri radioascoltatori. Meno male che in Egitto ci sono i generali, la verità è che è in corso una guerra di civiltà, scrive Lorenzo, e se l'Occidente non si dà una smossa, tra qualche anno a scuola studieremo il Corano al posto dei 10 comandamenti. Lo strapotere degli israeliani, dice un altro radioascoltatore, è la causa infinita di questa guerra, e quindi c'è una critica su Israele. Poi invece c'è un'altra critica, che i giornalisti italiani si sono concentrati su Gaza e su Tavecchio e non hanno parlato della Siria. Ringraziate Assad, Russia ancora in piedi, scrive Maurizio. Gli americani, gli inglesi, i francesi si credono i geni della politica esteri. Caro giornalisti, quello che ho già letto vi ha fatto più notizia la farsa palestinese, ma avevate gli occhi chiusi. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi do appuntamento a domani. La linea al GR, Irene Zerbini, una buona giornata da Elisabetta Fiorito.